Compagni di prigionia. Leggo nella Bibbia in Filemone, versi 22 a 25. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Leggo ancora in Ebrei 13, verso 3. Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste. Queste parole le troviamo al termine di una lettera molto particolare, molto personale. In essa, come abbiamo visto nei pensieri precedenti, Paolo ha spronato Filemone a perdonare e liberare Onesimo, non considerandolo più uno schiavo, ma un fratello in Cristo. È piuttosto singolare il fatto che Paolo si trovò ad intercedere per la liberazione di uno schiavo mentre egli stesso era prigioniero. E questa particolarità emerge ancora in maniera chiara proprio nei saluti finali. Questa lettera era cominciata con un prigioniero che scrive ai propri collaboratori e compagni d'armi nei versi 1 e 2 e termina con un prigioniero che spera di essere liberato confidando nelle preghiere dei propri commilitoni. Questo combattente era in carcere non perché aveva fatto qualcosa di male, ma perché predicava la buona notizia inerente alla salvezza in Gesù Cristo, in un mondo che disprezza Dio e non vuole sentire parlare di Gesù. Egli credeva che la sua liberazione fosse possibile e quindi pensava di poter raggiungere Filemone a Colosse, perché credeva che Dio ascoltasse le preghiere che gli altri credenti avrebbero fatto per lui. Come lui probabilmente sperava Epafra, che egli cita come suo compagno di prigionia, certamente meno famoso di Paolo, ma non meno importante agli occhi di Dio. Questi discepoli di Gesù non confidavano nella bontà dei propri carcerieri, ma confidavano nelle preghiere dei loro commilitoni. Come abbiamo detto, in questa lettera, Paolo chiamò Filemone a mostrare il suo amore in maniera straordinaria, perdonando e liberando Onesimo, uno schiavo. In un mondo che perseguita coloro che confidano in Gesù Cristo, Paolo invitò Filemone a mostrare il suo amore, a vincere con l'amore, mostrando anche ai suoi vicini pagani che il messaggio del Vangelo era un messaggio capace di trasformare la società attraverso l'amore. Ecco chi sono i discepoli di Cristo. Essi sono coloro che sono pronti anche a farsi imprigionare o persino uccidere pur di onorare Gesù Cristo, testimoniando di Lui, e allo stesso tempo sono pronti a perdonare e liberare anche i loro nemici, coloro che hanno fatto loro dei torti, persino i loro stessi persecutori. Vengono odiati, eppure amano. Vengono imprigionati, eppure rendono la libertà. Essi sono pronti a mostrare l'amore che vince il mondo, l'amore che cambia tutto, essendo testimoni nella società attraverso la trasformazione che Dio ha operato nella loro vita. Leggendo queste parole di Paolo, il mio pensiero è andato ai nostri compagni d'armi, ovvero fratelli e sorelle sparsi per il mondo, che condividono la nostra fede. E per questo motivo sono perseguitati e incarcerati. Molti di loro, probabilmente, come Paolo, sperano di essere liberati e confidano proprio nelle nostre preghiere. Ci rendiamo quindi conto di quanto sia importante pregare per i discepoli di Gesù, che sono perseguitati in molte parti del mondo. Sono nostri fratelli, sono discepoli di Cristo come noi, che pagano solo perché si trovano in paesi dove c'è intolleranza e persecuzione nei loro confronti. Se noi non siamo loro compagni di prigionia, non è perché siamo più meritevoli di essere trattati bene, ma solo perché viviamo in un paese che al momento ci permette di godere di maggiore libertà. Non dimentichiamoci di loro, perché essi confidano nelle nostre preghiere, come Paolo confidava nelle preghiere di Filemone e degli altri cristiani in Colosse. Come abbiamo letto, ricordiamoci di coloro che sono in carcere, proprio come se fossimo loro compagni di prigionia. essendo pronti a soffrire per il Vangelo se necessario, pregando per i nostri fratelli che sono prigionieri in un mondo che continua ad odiare Dio e i suoi figli, come i protagonisti di questa lettera, continuiamo a mostrare al mondo la vera libertà che la grazia di Dio è in grado di portare nella vita degli uomini.